Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Ricordo una cosa che non ricordo quasi mai. Ovviamente è possibile scaricare e ascoltare tutte le nostre puntate semplicemente andando sul sito di Radio 24. Lì accedere per conduttori o per programma, come volete, nella trasmissione Un abuso al giorno. Potete seguire sia quindi il profilo del conduttore, che sarei io, sia il profilo del programma, andare per ordine cronologico e ascoltare le puntate che ritenete opportune, quelle che vi siete persi. Potete andare anche a cercare per materie, quindi cercare quelle che sono più affini ai vostri interessi, interessi che, come dico sempre, devono essere collettivi, perché questa trasmissione cerca di affrontare casi che riguardino una platea quanto più ampia possibile di persone. Visto che siamo in fase di ricordi, ricordiamo anche il blog di chi vi parla. Il blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate attraverso un motore di ricerca oppure lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. È un blog, devo dire, e ringrazio tutti ovviamente, frequentato, commentato. I temi che tratto sono quelli di legalità e criminalità, e i temi che tratto anche in questa trasmissione, ovviamente. Allora, oggi trattiamo di un caso particolare, o meglio, diciamo dei rapporti che a volte intercorrono tra i cittadini e il corpo di polizia municipale. Detto e, come dire, confermato che deve andare sempre il nostro grazie come cittadini a chi indossa una divisa e quindi ha il compito di tutelare la legalità nelle nostre città, in questo caso, e poi vedremo perché, però accade che a volte i rapporti non siano poi così semplici. Ed è il caso che ci viene prospettato oggi dalla nostra radioascoltatrice Giulia Zanichelli, che ha avuto, come dire, un contrattempo, chiamiamolo così, poi lo sentiremo, in quel di Milano. Buongiorno Giulia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che cosa le è successo? Raccontiamo un po' questa avventura barra disavventura che ha avuto a Milano. Ma una disavventura che ha visto protagonisti vigili, nel senso che la mia macchina è stata incidentata da una, diciamo così, autista sconosciuta che è scappata, ma io sono riuscita a prendere la targa. La macchina era parcheggiata ed è parcheggiata in un quartiere dove io lavoro, che è quello di Villa Pizzone, quindi alla periferia di Milano, verso la fine di Viale Certosa. È una zona non completamente tranquilla, diciamo che ci sono molte problematiche dal punto di vista della sicurezza, e sono stata coinvolta in una di queste problematiche, perché la macchina era appunto di un boss, se così si può definire, o comunque di una persona abbastanza particolare che abita nel quartiere ed è conosciuta da tutti. Ecco, una persona abbastanza particolare, che cosa vuol dire? Non diciamo nome e cognome, perché anche perché non ci interessa, ma qualcuno che è capace di incutere timore? Molto timore. Hanno assistito al fatto che ha coinvolto non solo la mia macchina ma anche un'altra, due persone che hanno palesemente dichiarato alle forze dell'ordine di non voler dare le generalità per paura di ritorsioni. Ho capito, quindi il caso è molto molto particolare, devo dire molto molto delicato. Prima di andare nello specifico di quella che è stata finora la risposta del Comune di Milano, devo dire molto civile, molto educata, poi ne daremo conto, direi di andare con lei, Zanichelli, ancora un po' più nello specifico di quello che è accaduto con i vigili urbani. Cioè, allorquando lei si è trovata sola con la sua macchina, tamponata, senza la persona che la guidava che è scappata, con i due vigili urbani, che cosa è successo? Sembrerà incredibile, ma la macchina è ritornata con il suo autista sulla zona dell'incidente e si è ritrovata a 50 metri dalla macchina dei vigili, c'erano una di fronte all'altra. Alcuni testimoni poi hanno riconosciuto la signora che guidava e ci hanno informato che questa signora era comodamente seduta su una panchina in questo parchetto che era, diciamo, adiacente alla zona dell'evento. Certo. E i vigili si sono messi a fare il verbale dopodiché hanno iniziato a fare le pulci a quella che era la mia carta di circolazione. Ho capito. Ecco, ma è vero, come lei ha scritto, che ad un certo punto i vigili avrebbero dichiarato: signora, abbiamo paura, teniamo una famiglia a casa? Sì, perché a un certo punto, dato che insomma c'era una signora che doveva uscire dal parcheggio, la suddetta macchina era parcheggiata praticamente in mezzo alla strada, quindi questa macchina che poi mi ha causato l'incidente era parcheggiata in mezzo alla strada, stava impedendo a una signora di uscire, alcune persone delle mie colleghe che mi stavano, diciamo così, aiutando di sostegno, data la situazione un po' difficile, gli hanno segnalato ai vigili che c'era una signora che doveva uscire con la macchina, loro non si sono mossi, hanno iniziato a inquietarsi, hanno detto lasciateci fare il nostro lavoro, al che mi sono inquietata io perché ho detto adesso basta utilizzare questo tono con la sottoscritta che vi ha chiamato. Certo, certo, io devo dire che la nostra radioascoltatrice ci ha messo la faccia, un nome ed un cognome. In una zona di Milano non facile, come ce ne sono tantissime nelle grandi città, perché bisogna smettere di pensare che l'intimidazione, l'omertà, la paura, il pressapochismo siano soltanto al sud. Francamente basta con questi luoghi comuni. Ahimè, oggigiorno la delinquenza, piccola, grande, media, chiamiamola come vogliamo, condiziona le grandi e medie città ovunque, anche al nord. Allora dicevo, della grande dignità, e va dato atto, al comandante della Polizia Municipale di Milano, che il giorno stesso, sollecitato dalla nostra radioascoltatrice, ha dato la seguente risposta. Gentile signora, ho letto la sua mail con grande stupore e con preoccupazione. Non sono certo quelle che ha ricevuto risposte degne di un appartenente al Corpo di Polizia Municipale. Se riesce a puntualizzarmi meglio, ora e luogo, le circostanze del nostro intervento, potrò fare tutte le verifiche interne del caso. Per ora non posso far altro che aggiungere al suo il mio disappunto per quanto accaduto, invitandola, se possibile, a non estendere il suo giudizio negativo a tutti i vigili milanesi, che, le posso assicurare, fanno molto per la sicurezza dei loro concittadini. Cordiali saluti, il comandante Emilio Bezzon. Bene, queste sono le parole del comandante, direi Zanichelli, di grande civiltà, di grande impegno, e credo che non siano solo questi i segni della testimonianza e della vicinanza, giusto? No, il comandante mi ha chiesto appunto di fare due chiacchiere insieme, quindi mi ha chiesto un appuntamento a cui io andrò, come credo sia corretto e giusto per avere un chiarimento, e credo che sia anche una cosa però un po' eccezionale da questo punto di vista. Ecco, io ora non so se il nostro intervento, ma non credo, abbia smosso un po' le acque, non penso, devo dire, perché la risposta che le è arrivata è stata abbastanza tempestiva. Allora noi seguiremo ovviamente nel futuro anche questo tipo di rapporti, però direi di passare la parola per una valutazione a un nostro esperto, ad un nostro amico, posso dire, che è il comandante del Corpo di Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Buongiorno Scotti. Bentrovati. Allora, io le lascerei delle riflessioni su quanto è accaduto, che devo dire, a mio giudizio, poi lei mi corregga se sbaglio, dimostrano due cose. Il primo, che il cittadino ha il coraggio di denunciare. Secondo, che la Polizia Municipale ha tutto l'interesse a fare chiarezza ed essere trasparente. Ma magari sbaglio, prego Scotti. No, direi senz'altro, anche perché, come è ovvio, al di là delle norme di diritto, il comportamento avrebbe dovuto essere completamente diverso. Sono d'accordo sul fatto che ci deve essere un certo scrupolo nel controllare i documenti in caso di incidente, sia di colui che è stato investito, sia di colui che è l'investitore del veicolo. Questo perché nel momento in cui si rileva un incidente stradale, il codice della strada va applicato con la massima scrupolosità, con il massimo rigore. La persona avrebbe dovuto, se è presente sul posto, essere generalizzata, essere quindi individuata, ci doveva essere anche una attribuzione di responsabilità, ovviamente poi la persona in questione aveva tutte le possibilità di ricorrere a livello giudiziario se per caso la sua versione dei fatti fosse stata diversa. Ecco, io ho l'impressione che a volte, Scott, il senso di impunità in alcune aree del paese o in alcune zone di grandi città dia la possibilità a certi signori di fare ciò che pensano di poter fare. Le chiedo, a Monza, anche a Monza, i suoi uomini sono soggetti a rischi quali quelli a cui vanno incontro i vigili di Milano, di Napoli, di Roma, di Trapani, di Palermo e via dicendo? Certamente, ma comunque guardi, io credo che di fatto ci troviamo di fronte a un episodio che deve avere senza dubbio le caratteristiche dell'eccezionalità. E sa perché lo dico? Perché con le decine di migliaia di incidenti che rileva la polizia locale di Milano, che ricordiamoci che stiamo parlando di una delle polizie locali migliori del paese, no? Necessariamente in mezzo a questa grande massa di incidenti capita la persona pregiudicata, capita colui che può essere ritenuto pericoloso, capita la persona caratteriale. È chiaro che se ci fosse una situazione percentuale di casi di questo tipo rilevante, di proteste non avremmo una, ma diverse decine, anche calcolando una percentuale bassissima di incidenza di situazioni del genere. Benissimo, io la ringrazio Scotti per il suo intervento, come sempre è chiaro e lucido nei suoi interventi che ci aiutano a capire molto meglio i rapporti che intercorrono tra Polizia Municipale e cittadini. Grazie alla nostra radioascoltatrice Giulia Zanichelli, in regia Valeria Bernardi, in studio Laura Faggin e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.